Spunti di vista. I mille aspetti dell'attualità di Irene Zerbini. A chi ci ascolta da casa, invece dall'auto, chi sta andando al lavoro, ce ne sono tanti, chi sta andando in vacanza, chi ci ascolta dagli ospedali, buongiorno, buongiorno da Irene Zerbini. Oggi parleremo proprio di chi è rimasto e di chi va, perché tra coloro che vanno, e segnalano le associazioni dei consumatori, sono il 55% gli italiani che una vacanza non se la potranno permettere del tutto, nemmeno di quelle mordi e fuggi quest'anno. Tra coloro che vanno, quali sono state le mete più gettonate? E ci sono delle tendenze molto interessanti da segnalare. È chiaro che il budget l'ha fatta da padrone nelle scelte degli italiani che hanno riscoperto l'Italia quest'anno. Quale riviera ha il sopravvento? Quale riviera ha vinto tra, se non coloro che proprio ci sono andati, tra coloro che hanno cliccato per scegliere, per cercare, per definire la destinazione che li avrebbe accolti almeno per qualche giorno? Parleremo anche delle località, la località regina delle scelte degli italiani in questo periodo. Sono state infatti le mete italiane scelte dal 79% in più dei vacanzieri o aspiranti tali. Le ricerche verso l'estero, pensate, sono scese rispetto allo stesso periodo del 2012 sui siti turistici, sono scese del 38%. E vi daremo la classifica intera delle località più gettonate e più scelte, e naturalmente cercheremo con voi anche di capire perché. Prima però vogliamo affrontare un tema che campeggia ormai da 3 giorni sulle prime pagine di tutti i giornali, per cercare di capire come cambiare una situazione che ha portato un ragazzo di 14 anni a scegliere di togliersi la vita affranto pur di non dover affrontare tutti i giorni l'omofobia strisciante e palese dei coetanei. E forse su questo naturalmente non abbiamo alcuna prova, né nessuno dovrebbe permettersi di puntare il dito, della famiglia. Se avessi un figlio gay lo amerei assolutamente nella stessa maniera. Accetterebbe anche il compagno del figlio? Assolutamente no. Come fa una madre a buttare fuori il figlio che l'ha creato lei? Sei omosessuale, non è che l'ha chiesto lui, sei tu che l'hai fatto, no? Ciao mamma, ciao papà. Vi scrivo una lettera perché voglio proprio dirvi una cosa. Ma quando provo, le parole mi rimangono in gola. Da un po' avete notato che c'è come un muro di silenzio tra me e voi. Non avete probabilmente capito perché. E quando me lo chiedevate non rispondevo. Lo faccio adesso. Il fatto è che sono gay. E a questo punto ho smesso di leggere per la volta. È come se mi avessero telefonato dicendo suo figlio è morto, così, contro uno, schiantato col motorino. Boom. In quel momento il senso di perdita totale, era così. Poi mi è venuta la paura, improvvisamente la paura che lui non tornasse. Gli ho subito telefonato, ho detto vieni, ma torni a casa, ma torni, vero, torni. Ma quando torni? La paura di perderla è stata terribile. Ho detto adesso e se non torna più. Sì, a me questo l'avete sentito, un film che ha aperto gli occhi a tantissimi gay e non gay e genitori di gay che hanno avuto l'opportunità di vederlo anche a scuola. Chi l'ha girato? Un regista, si chiama Claudio Cippelletti, si intitola questo film Due volte genitori. Ebbene, come avete sentito già dal trailer, è un lungometraggio, frutto di un lungo lavoro, a fianco dei genitori dell'associazione Agedo. Quindi è centrato questo film sul coming out in famiglia, cioè sulle aspettative dei genitori, sui rapporti genitori-figli. E oggi noi, con sullo sfondo naturalmente l'imminente discussione su una legge contro l'omofobia, ci porremo una domanda. Al di là della legge, al di là dell'aspetto giuridico, come si può cambiare la mentalità? E soprattutto come si può cambiare la mentalità nei corridoi della scuola? Se pensate che le cifre parlano chiaro, il 68% dei ragazzini fino a 14 anni ha assistito a un episodio, almeno un episodio di bullismo a sfondo sessuale, oggetto del dileggio, perché spesso non si tratta di violenza fisica, ma le parole uccidono. Oggetto del dileggio era l'omosessualità o la presunta tale del ragazzino, della ragazzina che veniva presa di mira. Tutte tematiche che affronteremo nel corso di questo Spunti di Vista, grazie anche a qualcuno che ci aiuta dall'estero. Buongiorno, buongiorno William. Buongiorno Irene, buongiorno da Londra. Welcome. William Ward, tra poco dirò due parole di più su di te, è il corrispondente straniero che oggi ci aiuta a guardare l'Italia da fuori. Perché ci vive in Italia? Da quanti anni, William? È dal 1979 che sono approdato a Roma, ci ho vissuto in pianto stabile per 15 anni, ma dagli anni 90 faccio spola fra Londra e Roma, però visitando un po' tutta la penisola, insomma, sia per lavoro che per diletto. Quante sterline, quanti euro hai in tasca in questo momento? Ah, quanti euro ho in tasca, credo. nel portfolio che mantengo per l'Italia una quindicina, poche. Vabbè, sei in linea, dai, con la media nazionale. Esatto. Noi vorremmo ricordare che William Ward è una voce piuttosto nota agli ascoltatori delle radio in Italia, di Radio 24, di Radio Rai, perché hai lavorato molto per Radio 3, sei corrispondente a Londra, tra l'altro, per Panorama e per Il Foglio, e ti definisci un osservatore della società italiana, della sua cultura e del suo mondo politico. Secondo te, William, una persona cresciuta nel Regno Unito, cosa può dare come contributo, come giornalista, agli italiani che lo leggono, che leggono le sue osservazioni? Cioè, il tuo sguardo cos'ha di più di un collega che sia solo italiano? Guarda, intanto molte cose, perché l'impostazione della vita, dell'educazione stessa, sia quella familiare che quella scolastica, quella sociale, in Gran Bretagna è molto diversa da quella in Italia. Però aggiungerei subito una chiosa, cara Irene, che quando apre bocca un anglosassone che abbia un accento forte e che parli bene la lingua italiana o meno, viene subito, preso un po' in modo un po' sospettoso o diffidente da molti italiani. E anche sulla stampa, fra colleghi italiani, spesso se tu rilasci un'intervista o anche qualche battuta così di analisi, subito c'è la risposta: gli inglesi ci giudicano. Allora questa parola, questo verbo giudicare, insomma, non è molto simpatico certe volte, non è certo quella l'impressione, cioè l'intenzione mia nel fare un'analisi. E questo è un problema che hanno anche tanti corrispondenti italiani nei paesi anglosassoni e in Gran Bretagna soprattutto, cioè le loro osservazioni perdono un po' di credibilità, e anche le loro domande quando fatte con l'accento inevitabile, che in genere suscita simpatia, soprattutto l'accento inglese tra i più ben voluti, William. È vero quello che tu dici, ma rispetto ad altri accenti, ti assicuro, c'è un'accoglienza da corsia preferenziale. Parlando personalmente, e non parlo in senso collegiale per gli altri colleghi, perché siamo tutto sommato rivali sul piano professionale, anche dal punto di vista dell'analisi che facciamo, ognuno a modo suo, della società o della politica italiana, e non chiederei assolutamente, come cittadino orgoglioso di una società molto meritocratica in quasi tutto, non chiederei una corsia preferenziale, anche se ti ringrazio da questo accoglienza. Stavo solo fotografando una situazione purtroppo provinciale degli italiani, e riguarda il fatto che alcuni accenti e alcune seconde lingue siano ben più gradite di altre. Ecco. Prova ad andare in giro e vedrai se alle persone che portano un'altra cultura, un'altra lingua in questo paese, viene mai chiesto: ma come si dice in cinese, ma come si dice in tagalog? parlo della lingua filippina, guarda, mentre a te che cammini per le vie d'Italia spesso viene chiesto, ma in inglese come avreste detto, e viene formulata un'espressione. Questo è sicuramente un fenomeno innegabile, capisci cosa intendo per corsia preferenziale? Assolutamente sì. Parlando proprio della questione di linguaggio, Irene, direi che la situazione del corrispondente o dell'osservatore, dell'analista di cose italiane che ha come lingua madre l'inglese, ha un, come dire, un problema fra virgolette, è proprio un fenomeno particolare che ci sono così tanti termini che di origine inglese che ormai si usano in italiano, di cui ho già sentito nella presentazione di questa trasmissione che parlate, che ne so, di gay o di bullismo o di omofobia. So che la radice etimologica di omofobia è ellenica, antica, ma comunque homofobia è un termine coniato nei paesi anglosassoni. Parlando di questo tema in particolare, ma di molte altre cose, in Italia, come in molte altre culture europee, no, si ragiona oggigiorno moltissimo intorno a termini, non solo in senso cioè di lemmi linguistici, ma proprio del concetto che li circonda, che nasce e si è sviluppato in una società di lingua madre inglese. E quindi parliamo di omofobia nel senso di concetto, è chiaro, sì, perché crea dei problemi di interpretazione del campo semantico che ci sta intorno, ma tu a quali concetti e a quali interpretazioni un po' bizzarre ti riferisci, cosa hai in mente? Ma cioè, non vorrei cioè, fare, cioè, è proprio un problema di cui mi sono anche occupato negli ultimi anni, facendo da oltre 30 anni appunto una, spero un'acuta analisi e non, ecco, non squilibrata della politica italiana. Mi ricordo 30 anni quando approdai in Italia, c'era una sinistra o delle sinistre, partiti che si riconoscevano appunto nella dottrina marxista o marxista-leninista, di cui ce ne stavano diverse, non credo che debba elencarli agli ascoltatori nemmeno a quest'ora di mattina, ma che avevano un qualcosa di molto italiano, cioè essere comunista italiano, cioè rappresentava per i molti altri paesi stranieri, specialmente quelli nordici, una cosa, un qualcosa di molto italiano, difficilmente traducibile nel linguaggio, nella mentalità anche politica di persino di chi era di sinistra in un paese, che ne so, scandinavo, britannico, anglofono in genere. Oggigiorno, e quindi c'era una sinistra con un linguaggio un po' difficile da tradurre in qualche modo, da spiegare poi ai vostri lettori. Invece adesso è passata alla destra, che ci sono diversi partiti che parlano un loro linguaggio, che hanno i loro punti di vista o i loro punti di riferimento, che sono molto difficilmente spiegabili ad un pubblico straniero, in questo caso anglofono, ecco. Quando voi vivete in Italia e parlate dell'Italia, spesso venite additati di partigianeria, come a dire, mettete il dito sull'anomalia politica italiana e immediatamente, quando poi venite ritradotti nella lingua italiana, in qualche modo c'è questo atteggiamento che tu hai prima segnalato, gli inglesi ci giudicano, che vi fa ascrivere, anche se poi non ne fate parte, voi corrispondenti straniera, a questo o a quel partito. Sei consapevole di questo rischio? Ti sarà capitato con i tuoi amici? Assolutamente sì, e personalmente lo respingo con veemenza. Cioè, il fatto che io appunto corrisponda a Londra per quel storico settimanale del gruppo Mondadori Panorama e per il quotidiano di opinione fondato e ancora diretto da Giuliano Ferrara, nella mente di molti italiani per forza mi vuole collocare in un'opposizione politica ultra berlusconiana, che non è assolutamente il caso, nemmeno il fatto che corrisponda molto felicemente da 30 anni per Radio 3 della RAI, che notoriamente esprime un gamma gamma di posizioni legate alla sinistra. Cioè, però c'è questa tendenza in Italia, c'è questa tendenza in Italia sempre molto frettolosa ad affibbiare etichette. E voi corrispondenti avete una posizione un po' scomoda, perché a seconda del governo di turno applicate con i codici della vostra deontologia giornalistica e poi osservando semplicemente raccontate quelle che sono le lacune o le criticità di questo, di quel governo, di quel e immediatamente venite tacciati di appartenere o a destra o a sinistra o a entrambi. Esatto. Con grande confusione. Se potrei aggiungere proprio qui un'osservazione che spesso sfugge non solo al lettore italiano, al cui può essere anche perdonato di non capire, come dire, le particolarità della stampa, dei media, almeno anglosassoni, ma persino anche ai direttori di giornali in Italia, un fatto che un giornale di, che ne so, di centrodestra o che esprime in genere posizioni di centrodestra in Inghilterra, a differenza di quelle italiane, spesso e volentieri, anzi quasi di più, critica le posizioni del governo, dell'opposizione che sia, dalla sua parte politica. Da noi è una cosa normale. In Italia, persino in Spagna, che è un paese latino che condivide con l'Italia molti riflessi, direi, culturali, anche storici per certi versi, dove è normale che un quotidiano, una testata di centrodestra come El Mundo sia proprio la testata che ha scatenato tutto lo scandalo politico intorno al tesoriere o l'ex tesoriere del Partito Popolare, una cosa difficile da succedere in Italia. In Italia si intende. E in Italia anche l'origine delle testate è politica e partigiana, cioè non erano dei bollettini che facevano resoconti, per cui c'è un modo di intendere la stampa diverso. Ora chiaramente è difficile questo da spiegare a chi ci osserva dall'estero, ma c'è anche una classe politica più abituata a comprendere che proprio le domande dei giornalisti potrebbero in qualche modo essere di beneficio alla propria possibilità di spiegare, alla propria possibilità, esatto, di chiarire dei passaggi oscuri. Questo c'è molto all'estero, in Italia non c'è assolutamente nella classe politica, per cui si cerca anche lì il giornalista, l'ospitata, la trasmissione televisiva, radiofonica, la testata che possa farci fare bella figura, malinterpretando probabilmente la funzione del giornalismo. Rimani con noi, William, perché tra pochissimo andremo a parlare di qualcosa che voi già avete in Gran Bretagna dal 2010. Sto parlando delle leggi anti-omofobia, che fanno da sfondo al discorso che oggi vogliamo fare rispetto all'accettazione dell'omosessualità dei ragazzi più giovani, alle difficoltà che i ragazzi incontrano quando ne devono parlare, e vorremmo approfittare della tua presenza anche per capire se quella legge che in Gran Bretagna è stata approvata nel 2010 ha portato, dal punto di vista pratico, dal punto di vista della discriminazione, qualche beneficio, qualche passo avanti, qualche possibilità di tutela maggiore rispetto a 3 anni fa. Spunti di vista. I 1000 aspetti dell'attualità. Whatever happened to the funky race? A generation lost in pace. Wasn't life supposed to be more than this? In this kiss, I'll change your ball for my bliss. Let go my hand and it will slip on the sand. If you don't give me the chance to break down the walls of attitude, I ask nothing of you, not even your gratitude. And if you think I'm corny, then it will not make me sorry. It's your right to laugh at me. Beh, è quasi un urlo questa canzone. Ancora buongiorno da Irene Zerbini, 35 minuti dopo le 8, le note di The Ark, It Takes a Fool to Remain Sane, una canzone che è stata un successo mondiale perché parla appunto di discriminazione. Di discriminazione si parla nelle aule dei parlamenti, un po' svogliatamente nel nostro, decisamente svogliatamente, quasi come fosse così un dovere di recupero, un prezzo da pagare a un'opinione pubblica che ogni tanto si fa sentire. Ma a noi interessa capire un altro aspetto, o un aspetto che forse va mano nella mano con il primo che abbiamo citato, cioè il rapporto tra la legge sull'omofobia, la presenza di tutele in alcuni paesi e quello che poi tutti i giorni i ragazzi si trovano a vivere nelle scuole, nella società, nei parchi, nelle strade, nei bar dove vanno. Il periodo più terribile per un ragazzo gay, ci scrive qualcuno, è quello della scuola media, in cui l'immaturità dei compagni favorisce il bullismo omofobo. E a farne le spese, attenzione, sono più che i gay, che si guardano bene dal farsi riconoscere, i ragazzi che sembrano gay secondo i pregiudizi più diffusi. Ovviamente i ragazzi gay non dichiarati, identificati come gay perché poco propensi ad atteggiamenti da bullo, sono molti e per loro la vita diventa molto difficile. Difficoltà che hanno portato un ragazzo che invece ha lasciato una lettera prima di decidere di togliersela questa vita, hanno portato a una scelta terribile che abbiamo appreso dalle testate dei giornali, dalla televisione, dalle radio in questi giorni e ha lasciato attoniti, sbigottiti, sorpresi migliaia e migliaia di italiani. Ora ringrazio e saluto per la sua presenza Claudio Cipelletti. Buongiorno Claudio. Buongiorno, eccomi qua. Claudio è il regista del film che avete sentito in apertura di trasmissione, almeno avete sentito alcune voci tratte dal trailer. Si chiama Due volte genitori, questo film che ha letteralmente strappato le lacrime di tantissime persone che non vivevano nella propria famiglia una situazione di coming out del figlio o della figlia gay, che si sono trovati alla proiezione quasi per caso e se ne sono andati dicendo: ma io non sapevo, io non immaginavo tanta sofferenza. E allora questo è un film frutto di un lavoro a fianco dei genitori dell'associazione Agedo e ti chiedo Claudio innanzitutto cos'è questa associazione di cui molti ignorano l'esistenza naturalmente. Agedo è un'associazione di genitori innanzitutto, è un'associazione di genitori con figli omosessuali o lesbiche, è un'associazione nata ormai più da 20 anni, nel 2003 abbiamo quest'anno, 2013 abbiamo festeggiato i 20 anni, però 20 anni fa potete immaginare che c'era il deserto, nel senso che in Italia esisteva giusto una, poi due mamme coraggio che hanno osato riconoscere che la questione del loro figlio non era solo privata, non era solo loro, ma probabilmente interessava molti altri. E da allora l'associazione, all'inizio bisogna dire con difficoltà, pian piano, per l'omertà che purtroppo coinvolge non solo chi è gay, ma anche appunto le famiglie di chi è gay, poi sempre più rapidamente, insomma, è diventata un'associazione nazionale che dà un grosso supporto alle famiglie che si trovano di fronte a questo inaspettato coming out, dico inaspettato con un po' di amarezza perché ancora oggi sembra che l'omosessualità non stia mai nella famiglia e men che meno nella propria famiglia. E nel tuo film infatti molti genitori si trovano a dire: se mi avessero detto che io potevo partorire figli o figlie eterosessuali o omosessuali probabilmente sarei stata preparata. Invece è un pensiero che quasi non viene mai preso in considerazione. Tu hai detto queste famiglie, il sostegno a queste famiglie, perché queste famiglie hanno bisogno di sostegno? Hanno bisogno di sostegno laddove appunto non sono preparate in nessuna fase della crescita dei genitori come educatori. Pensiamo, non so, a quando i genitori seguono i corsi prenatali, che insomma si attrezzano a ricevere il nascituro, pensano alla sua educazione, si preoccupano di mille aspetti. Questo non esiste, cioè fin da subito questo aspetto non è contemplato, non è previsto, per cui per la maggior parte, perché poi per fortuna non è così per tutte le famiglie, ma per la maggior parte delle famiglie italiane questa cosa cade come una tegola sulla testa e quindi manca completamente lo spazio proprio mentale, e questo fatto è quello che genera l'enorme disagio soprattutto in età adolescenziale in un figlio, perché bisogna immaginare cosa voglia dire crescere da 14enne, da 15enne o anche da 13enne pensando che la propria famiglia non possa ascoltare la tua verità pena l'esclusione, l'espulsione della famiglia, il rifiuto, il tentativo di correzione. Insomma, uno ci pensa veramente due volte prima di perdere gli affetti primari, e quindi questa mancanza di preparazione, che non è una colpa dei genitori, è uno strumento di addirittura di involontaria violenza verso i propri figli, che non si sentono tutelati dalla propria famiglia e quindi si chiudono nel silenzio. Ma cosa deve fare un genitore di fronte all'apertura del figlio che rivela, come nel trailer che abbiamo sentito tratto dal tuo film, addirittura attraverso una lettera? Significativa questa scelta della lettera, no? Persone, certo, che scelgono di parlare senza guardarsi negli occhi per evitare un momento così vissuto, non in tutte ma ancora nella maggior parte delle famiglie, come drammatico. E soprattutto ci siamo chiesti: una legge anti-omofobia in che modo potrebbe favorire questa facilità di rapporti? E siamo andati un po' a frugare nei paesi altrui. Oggi lo fa anche il Manifesto, questa tematica si ritrova sul giornale. Non è una tematica di destra o di sinistra, è una tematica che riguarda i diritti civili. Ebbene, sembra che in Spagna, da quando è stata introdotta questa legge, e la Spagna è un paese che, pur essendo cattolico, il matrimonio tra persone dello stesso sesso l'ha legalizzato dal 2005, comunque sembra che in Spagna questa legge sia riuscita poi a far registrare degli effetti pratici nella vita, nei corridoi, nei luoghi di aggregazione dei ragazzi, perché il ragazzo sente di il ragazzo o la ragazza sente di avere l'appoggio familiare. Quando proprio non c'è l'appoggio familiare, comunque sente di avere un sostegno a livello sociale e giuridico, e infatti il suicidio è calato per ragioni legate alla propria omosessualità, e segnalano i politici spagnoli il suicidio. Chi ha tentato il suicidio o è riuscito in quel tentativo non godeva in generale del sostegno delle proprie famiglie. E nelle scuole cosa si può fare nei posti dove i giovani trascorrono l'80% del tempo fuori da casa? Buongiorno a Cristian Fabi. Buongiorno, buongiorno Irene, buongiorno Claudio, buongiorno agli ascoltatori. Ebbene, Cristiana Fabi è un pedagogista, agisce soprattutto a Reggio Emilia, e le tecniche d'avanguardia, come voi sapete, degli asili, delle scuole di primo grado, della provincia di Reggio Emilia, hanno fatto sì che l'Italia sia un'eccellenza all'estero, almeno in questo campo, dal punto di vista pedagogico. Sono situazioni e procedure molto osservate, molto copiate. Ricordo che a Reggio Emilia arrivano spesso questi pullman perfino dalla Svezia, cioè da posti all'avanguardia in questi campi, per capire come ci si muove. Ecco, dallo scambio tra voi e tra le pratiche pedagogiche di Reggio Emilia e delle pratiche svedesi proprio nel campo della lotta all'omofobia, sono sorti esperimenti interessanti. Ma in Svezia cosa fanno, Cristian, nelle scuole per scardinare questo atteggiamento che porta tanta sofferenza a tanti ragazzi e a tanti bambini? E soprattutto a che età cominciano? Ecco, diciamo che la Svezia, intanto, come anche il Nord Europa, è un contesto dove un certo tipo di diritti hanno avuto cittadinanza molto prima che da noi, e quindi è chiaro che guardare a questo contesto significa per noi conoscere e poter anche valutare esperienze che hanno preceduto la nostra riflessione di almeno una ventina d'anni. Allora noi, e per noi intendo un distretto di scuole che si chiama Bassa Reggiana, che è in provincia di Reggio Emilia, la zona di Novellara, di Guastalla, stiamo iniziando una sperimentazione con un contesto di Stoccolma che fa riferimento a una scuola in particolare che si chiama Egalia, una scuola che è stata voluta prevalentemente da famiglie dove ci sono anche molti genitori gay, e che ha iniziato un percorso di lavoro sugli stereotipi del femminile e del maschile per rimuoverli, per in qualche modo renderli meno aggressivi nella crescita dei bambini, e che sicuramente contribuisce tanto in questo contesto a creare nella società, proprio nella comunità di Stoccolma, una disponibilità culturale verso le differenza a partire proprio da 0-6 anni, quindi dalla prima infanzia. Quindi non solo leggi, ma anche lotta attiva con delle procedure strutturate, insomma non lasciate al singolo o alla buona volontà o alla sensibilità del singolo insegnante, come spesso avviene in Italia, ma fornendo degli strumenti proprio a chi con i bambini, con i ragazzi ha a che fare tutti i giorni, per scardinare certi stereotipi, perché chiaramente il bullismo ha molto spesso questo sfondo legato all'omosessualità vero o presunta, ma non sono, sono un po' tutti gli stereotipi che si creano che poi possono alimentare queste persecuzioni. Ma in pratica cosa fanno? Allora, ce lo dici tra pochissimo, devo interromperti perché siamo in agosto ed è urgente andare a controllare cosa sta succedendo su strade e autostrade. Ritorneremo con Christian Fabbi e con tutti i nostri ospiti tra qualche istante. Se a me avessero detto tu sarai madre, partorirai dei figli maschi o femmini che potranno essere etero o omosessuali, l'impatto con questa cosa sarebbe stato completamente diverso. Fin quando l'educazione, la cultura ignorerà questo, secondo me sarà sempre una disperazione, perché quando combatti con l'ignoto sei sempre disperato. Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. E vi daremo il collegamento con il traffico, qualche problemino tecnico per il Solleone più tardi. Avete sentito un'altra madre, tratta dal film di Claudio Cipelletti, Due volte genitori, raccontare il proprio, come dire, stupore, sconcerto. I genitori poi però fanno un percorso e ne parleremo anche di questo con chi al loro fianco l'ha fatto e ha iniziato qualche anno fa, perché dopo il coming out, il percorso di consapevolezza della famiglia non dura qualche istante, cioè a volte porta ad anni di discorsi, di dialoghi e di confronti. Tornando alla Svezia, cosa fanno in pratica per scardinare un po' di questi pregiudizi così diffusi in tutto il mondo? Come si agisce su bambini tanto giovani? Non credo facciano lezioni universitarie. Come agiscono, Christian? Mentre aspettiamo la risposta dalla Svezia, cerchiamo di capire cosa si fa già, grazie a voi, grazie agli ascoltatori, nelle scuole italiane. Antonio, buongiorno, buongiorno e benvenuto. Ah, ci dicono dalla regia che semplicemente non funziona nessun telefono. Quindi siamo isolati dal mondo. Vi leggiamo allora forse gli sms che arrivano al 349-238-6666 mentre cerchiamo di ripristinare la linea e la capacità tecnica, così di farvi sentire le voci di chi su questo tema lavora da molto tempo. Omofobia e discriminazione nelle scuole, questo è un sms che ci è stato inviato, 349-238-6666. Ci si rende conto quanto in Italia esista ancora una pesantissima cappa di omofobia che porta alla discriminazione fin dall'adolescenza e fa vivere pesanti situazioni di disagio, sia a scuola, si dice, che nell'ambiente familiare. Partiamo allora da alcune osservazioni. Ci segnala invece un ascoltatore che si firma Paolo. Si stima che i gay siano in media l'8% della popolazione e in gran parte si tratta di gay non dichiarati che sfuggono alle statistiche, e ci sono infatti alcuni progetti che si occupano proprio di questo. In pratica i gay visibili, quelli dichiarati, sono solo la punta dell'iceberg, la grande massa resta sommersa. Cosa vuol dire in pratica? Che in una scuola di 1000 studenti ce ne saranno circa 80 omosessuali, media un paio per classe, ma non se ne vede neppure uno. È il compito, è lo scopo e la missione di un paese civile fare sì che anche questi 80 studenti possano appieno vivere la propria identità senza essere costretti a nascondersi negli armadi. Grazie per questa bellissima segnalazione, naturalmente a Lori. Conosco un ragazzo di 20 anni che non ha mai avuto nessuna fidanzata perché è omosessuale, ma lo racconta a noi amici, ci segnala Massimo che scrive da Firenze. conseguenze, perché a 15 anni la madre gli ha chiesto: ti piace questa signorina, ti piacciono le ragazze, sappi che se non ti piacciono per noi saranno grandi problemi. E continuate dunque a segnalarci situazioni in cui il disagio familiare, l'impossibilità di un rapporto con la famiglia sta alla base spesso della chiusura, spesso della volontà di nascondersi e per fortuna pochissime volte anche della possibilità drammatica che abbiamo registrato qualche giorno fa di un ragazzino di decidere di togliersi la vita. Claudio Cipelletti, parlavamo di questo shock del momento del coming out con i genitori, shock familiare. E cosa segue in genere a questo primo processo? Ci sono persone che ancora rifiutano e decidono di non aver più rapporti con il figlio o la figlia che ha detto di essere gay o lesbica? Io vorrei dire una cosa un pochino sfumata rispetto al fatto che giustamente stiamo parlando di cosa succede, come se succedesse qualche cosa di secco, no? Ah, tu sei gay, ti sbatto fuori casa. Non c'è la legge, quindi c'è l'omofobia. La realtà è molto più sfumata. Purtroppo gli atteggiamenti omofobici non sono spesso degli atti di violenza, tanto per fare un esempio, ma soprattutto nella famiglia sono le infinite sfumature del silenzio. Cioè, non c'è niente di più tremendo per un adolescente avere il sospetto di non poter dire di sé. Quindi quello che consiglierei, prima chiedevi che cosa deve fare il genitore, non deve fare qualcosa nel caso in cui un figlio mi dica sono gay, sono lesbica. Il genitore in qualche modo da sempre dovrebbe essere lui ad avere, in una cultura che non c'è ancora in Italia, la sensazione, e la citazione del pezzo del mio film di poco fa dice proprio questo, che questa è una possibilità e quindi deve far passare continuamente ai propri figli, tra le varie insomma passaggi dell'educazione, il fatto che se questo fosse non ci sarebbe niente di male, non sarebbe un problema. Quindi poi vuol dire già da subito avere un dialogo col figlio su tutto e anche su questo aspetto non sarà traumatico. Ci sono genitori che lo fanno, registriamolo, certo, e lo fanno, certo, appunto in età prescolare, già con i bambini, certo, dimostrando anche un atteggiamento di accoglienza. Poi quando il figlio non è gay, benissimo, avrà acquisito una tolleranza, una capacità di ascolto e non sarà un bullo. Se invece lo sarà gay o lesbica, benissimo, avrà semplicemente la possibilità di parlarne tranquillamente con i suoi genitori come di tante altre cose e non succederà un dramma. Nel momento in cui questo silenzio invece c'è, è un silenzio che a 14 anni ha un peso veramente ingestibile, quasi insostenibile. Quindi il genitore a quel punto diventa suo malgrado e inconsapevolmente purtroppo causa di un malessere. Il malessere ovviamente non sta mai nell'omosessualità, sta nell'accoglienza che viene data, ma ripeto, è un'accoglienza silenziosamente passiva, non è un'accoglienza, non è che il genitore si sveglia tutte le mattine e dice se tu fossi gay ti ucciderei. Purtroppo ci no, sono no, però spesso ci hanno segnalato anche persone che ci hanno contattato, purtroppo, e che l'hanno vissuto in prima persona, e diciamo così, l'odio, la discriminazione non è indirizzata al figlio, che si presume non farà mai parte di quella terribile di quel terribile gruppo, ma sono commenti davanti a un film, davanti a una notizia data alla radio, alla televisione, per cui il ragazzino, la ragazzina gay che sta pensando di rivelare ai genitori la propria inclinazione sessuale si tira indietro, decide di rimandare perché capisce che non è cosa, non c'è il terreno. Ora, dare all'Italia una legislazione moderna in materia di omofobia, alcuni dicono non ha alcun nesso, non servirà una legge a sradicare i pregiudizi, perché, come ci stai spiegando anche tu, è soprattutto a livello culturale che bisogna agire, ma una legge può essere e deve essere uno degli strumenti di cui un paese moderno si dota, o secondo te non avrà alcun effetto? Indubbiamente sì, ma come giustamente stiamo dicendo, fa parte di un complesso di iniziative attive, non solo punitive, cioè non ha senso fare una legge punitiva e pensare che risolva le cose, anzi potrebbe addirittura inasprire magari i contrasti, perché nel momento in cui si punisce una categoria che in quel momento diventa la quella degli omofobi, quindi quella dei cattivi, si creano appunto i buoni e i cattivi dentro la società e può essere un problema. Deve far parte, come è successo in Spagna, il cui effetto positivo non è solo quello della legge contro l'omofobia, ma è l'insieme, cioè il venire a galla delle famiglie omogenitoriali, i matrimoni, il parlarne a scuola, l'insieme di tutte queste iniziative che hanno un impatto educativo, culturale, fa sì che poi davvero la violenza, anche inconsapevole e a volte invece diretta e consapevole, diminuisca. Quindi ripeto, sono iniziative attive, di lotta attiva e culturale, che devono ovviamente innescare un processo che nella società necessariamente sarà lungo, di cui questa legge è un indispensabile passaggio. Stiamo parlando oggi di diritti civili, appunto di rispetto dei diritti civili, e di una realtà, di una società che già si è organizzata, di un potere politico che dovrebbe in qualche modo gestire e regolamentare quello che c'è già nel reale, che si fotografa e che invece ancora una volta rimane indietro. Saluto e ringrazio per la sua presenza Ettore Ciano, buongiorno. Buongiorno signora. Buongiorno, buongiorno Ettore. Ettore è il genitore di un ragazzo omosessuale e ci chiede un ascoltatore cosa hanno provato i genitori di ragazzi e ragazze omosessuali quando hanno sentito le parole del Papa. Ce lo chiede via SMS al 349-238-6666. Cioè, quando lei ha sentito anche il pontefice dire chi sono io per giudicare un gay, la mossa in qualche modo, ha pensato stiamo cambiando pagina, il cambio di un'era? Sì, sì, è vero signora. Ho pensato esattamente quello che sta dicendo lei, e dunque è un cambio di indirizzo da parte del papato e della Chiesa, insomma, verso l'omosessualità, cioè da una condanna atavica, millenaria, insomma, verso l'omosessualità che si è concretizzata in persecuzioni, in anatemi vari, è stata la prima parola che tra l'altro si adegua a quello che è il dettato del Vangelo, cioè il giudizio è di Dio, non è di questo mondo. È vero che il Papa è rappresentante di Dio in terra, però è chiaro che le parole del Papa colpiscono molto la sensibilità della persona religiosa, ma anche della persona in generale, insomma. Se c'è una condanna dell'omosessualità, non dimentichiamo che il Papa scorso ha condannato gli omosessuali come fautori delle guerre mondiali, insomma, che è una cosa completamente fuori del tempo, però Ettore, ma lei prima che il suo ragazzo, cioè suo figlio, le dicesse della propria omosessualità, aveva questo atteggiamento così aperto? No, l'omosessualità dei figli al momento in cui è accettato apre un mondo, cioè è come se allargasse l'analisi del mondo a 360 gradi, nel senso che tutti gli atteggiamenti discriminatori verso l'altro vengono immediatamente percepiti, cioè aumenta la sensibilizzazione del genitore che comincia a vedere che cosa è successo realmente al figlio, che è stato costretto a crescere in una società discriminatoria, che odia l'altro, che sollecita attraverso messaggi da parte istituzionale, cioè io voglio dire certi atteggiamenti da parte del politico che è in vista in una società e che sono discriminatori verso l'altro, vengono immediatamente recepiti, se lo fa e se lo dice. È un aumento di sensibilità. Ah, per noi senz'altro. Le reti neurali intercettano molto più le discriminazioni, gli stereotipi, le sofferenze e non solo verso gli omosessuali. Arriveremo con le conclusioni dopo il GR, ora linea alle news. Spunti di vista. I mille aspetti dell'attualità. Abbiamo ancora tempo per discutere, per fortuna, perché sono moltissimi gli stimoli in materia di legge sull'omofobia, ma soprattutto educazione alla rimozione delle discriminazioni. Sono tantissimi quelli tra voi che ci state ascoltando e che ci hanno segnalato situazioni anche di insperata emancipazione, molto avanti, devo dire. Ancora buongiorno da Irene Zerbini, 9 minuti dopo le 9. Legge anti-omofobia, sì, ma soprattutto come eliminare quelle parole, quegli atteggiamenti, quella discriminazione che a volte uccidono, come ci ha detto la cronaca qualche giorno fa, con quel dolore immenso di questa famiglia di Roma che ha scelto perfino di lasciare la città temporaneamente, perché non può reggere chiaramente tutto il tentativo di contatti, di richieste, di interviste, di spiegazioni. C'è chi ha frettolosamente puntato il dito, ci segnala invece un ascoltatore con grande garbo che non si può certo puntare il dito con contro un genitore o contro una famiglia che si aspetta che un giorno festeggerà il matrimonio del figlio o della figlia. Grazie per la tua segnalazione, Lucia. Io sono da una parte a favore dell'amore, ci segnala invece Roberto, e dall'altra contro l'ignoranza, il pregiudizio, e invece spesso constato sui media l'utilizzo di un linguaggio omofobico, e grazie anche per questo. Abbiamo anche chi ci contatta al telefono, cerchiamo di dare voce a tutti, sono molti gli stimoli su queste tematiche perché difficilmente si affrontano. Oggi con noi ci sono i genitori, coloro che hanno vissuto questa esperienza che poi ha cambiato anche l'identità della famiglia intera, cioè del ragazzo o della ragazza che un giorno dice al papà e alla mamma come stanno le cose sulla sua inclinazione, sul proprio orientamento sessuale. Pronto, buongiorno ad Angelo. Buongiorno. Buongiorno, sono Angelo da Milano. Quanti anni hai, Angelo? Io 39. Buongiorno. E ci chiami per un'indicazione? Per la mia esperienza, esatto. Ah, per la tua esperienza, sì. Esatto. Quando io avevo 19-20 anni, no? Ero ormai consapevole della mia sessualità e tutto. Sì. Una sera ho chiesto a tutti i miei familiari di parlargli. E tieni presente che avevo padre, madre e quattro fratelli, no? È stata abbastanza dura, no? E gli ho detto: trovare le sedie, tu dici, intorno a quel tavolo. Esatto. Cari genitori e fratelli, se voi aspettate un nipotino da parte mia, scordatevelo, perché io sono gay, no? Nessuno ha detto niente. L'unica frase che io mi ricordo. Ah, si è creato il silenzio. Beh, sì, il silenzio, nessuno ha detto niente, non hanno fatto né commenti né niente. L'unica cosa che mia mamma ha detto, dice, la vita è tua e sei libero di viverla come vuoi. Da quel momento il tuo rapporto con la tua famiglia è cambiato in meglio, in peggio, è rimasto identico? No, è rimasto identico, tanto è vero che io, quando io avevo un compagno, lo portavo a casa, lo facevo conoscere a mia mamma, tutto quanto. Io non è stata, ho vissuto veramente una cosa veramente bella, che è molto rara una cosa del genere, ecco. No, ci fa piacere questa tua segnalazione, perché è una delle possibilità anomala, se vuoi, la tua, perché avveniva 20 anni fa, cioè hai detto hai 39 sì, infatti, anni, è avvenuta 20 anni, oggi è molto più, plausibile, ma si ripete più spesso, anche dai racconti che ci state facendo via sms al 349-238-6666, ci sembra che questa accettazione, questo percorso così normale di accoglienza verso il figlio o la figlia che dice sono omosessuale, sono lesbica, è molto più diffuso naturalmente, Angelo, oggi che 20 anni fa. Grazie comunque. Figurati. Ciao. Grazie, buona giornata. Vorremmo chiedere a chi questa legge sull'omofobia ce l'ha dentro i confini di casa propria, cosa ha portato? Un cambio d'atteggiamento? Una diminuzione degli episodi di aggressione e di violenza? Nulla, sono mille le possibilità. William Ward, il nostro corrispondente che ci ascolta da Londra e ci racconta dall'Italia, è tornato a casa per le vacanze. William, allora, in Gran Bretagna è stata introdotta questa legge nel 2010. Ora, qual è il tuo bilancio? Qual è il tuo giudizio? Ma direi positivo, nel senso che come tutte le leggi che vengono approvate in Gran Bretagna sono equilibrate, scritte, espresse in un linguaggio comprensibile e semplice, quindi anche di facile applicazione. E questo è un commento, come dire, indiretto, un po' polemico. Sì, un po' polemico. No, ho colto. Va bene, ok, gli inglesi vi giudicano. Questa legge ha avuto anche un successo, come dire, anche perché era basata su anche una comprensione intelligente e sensibile alla società britannica nella posizione, una fotografia, se vogliamo, degli umori, dei riflessi culturali della società britannica in questo momento. Quindi invece di imporre una cosa terribilmente altosonante con lunghi appelli a non so quali principi, eccetera, eccetera, era basato su un principio molto semplice dell'uguaglianza fra tutti, non solo di tutti i cittadini, ma soprattutto a tutti gli alunni, soprattutto accademici, alle scuole e all'università. Il problema è che il fenomeno di bullismo, di bullying, come lo chiamiamo noi, è molto diffuso e non è solo riservato a chi esprime o sembra di esprimere una sessualità, un tipo, una mascolinità, diciamo, diversa dalla norma. Ha dato un obbligo a tutte le istituzioni pedagogiche, scolastiche, un obbligo non solo legale ma anche morale di dover difendere questa uguaglianza, un'uguaglianza di trattamento. Quindi implicitamente, anzi esplicitamente, facendo tener conto ai docenti, alle strutture accademiche, una responsabilità legale di far sì che questo bullismo, soprattutto in campo omofobico, non succeda nelle aule, nell'ora della recreazione delle scuole, o e quindi una legge che è partita da una consapevolezza pragmatica molto chiara e molto intelligente. Direi che ha avuto successo e ha creato, fra l'altro, un nuovo soggetto legale, se vogliamo, che era il contenuto in questa legge, che si chiamava moral duty, proprio un dovere morale da parte degli insegnanti. Era proprio sancito questa frase per legge. Usata nella legge, proprio per far sì che nessun insegnante, nessun docente, nessun preside o educatore, consiglio di scuola, insomma, potesse venir meno a questo obbligo. Sì, girasse la testa dall'altra parte. Grazie a William Ward per questa testimonianza sul campo. Lo ricordiamo, scrive per Panorama e per Il Foglio. L'abbiamo precisato quando abbiamo conversato con lui. Nel caso ci sia ancora chi pensa che parlare di legge sull'omofobia e difendere i diritti civili sia una questione solo di sinistra, come qualcuno ci ha segnalato, è una minoranza naturalmente tra gli ascoltatori. 349-238-6666 è il numero da comporre per i vostri sms. Ora dobbiamo veramente fare uno sforzo di sintesi e di velocità con tutti. Si parla del fatto che stereotipi e bullismo non colpiscono solo i ragazzi omosessuali o che sembrano omosessuali. Sentiamo Antonio Restori, buongiorno, da Parma, un genitore e psicologo impegnato da anni nella battaglia contro i pregiudizi nei corridoi delle scuole. Antonio, se non le spiace, io scomodo la sua esperienza personale di genitore. Lei è un genitore di una bambina di origini cinesi. Sì, esatto. Questa è una classica situazione che abbiamo anche con la nostra esperienza di genitori adottivi, dove comunque tutta la questione della diversità o di ciò che non è nella norma risulta essere sempre foriero di impatti piuttosto difficili da magari comprendere. E sua figlia le ha raccontato di essere stata sbeffeggiata o scherzata per il suo aspetto? Sì, certo, questo succede. Magari la cosa importante, io credo, in generale, è che all'interno della famiglia ci sia sempre una comunicazione molto aperta. Dico una cosa molto scontata, ma scontata non è. Questo per tutti i tipi di pregiudizi o comunque tutte le prevaricazioni che possono accadere ai nostri figli all'interno dei contesti di aggregazione come la scuola. scuola, il gruppo degli amici, i parchi, ovunque dove c'è. E come ha insegnato a difendersi a sua figlia? Ma la possibilità di comunicare innanzitutto il proprio disagio è già un modo di insegnare, cioè se c'è questo tipo di spazio per poter ascoltare quello che accade nella vita dei nostri figli e questo spazio non viene giudicato, cioè uno spazio non giudicante, ma viene accolto come un'esperienza possibile, si crea, io credo, nei nostri figli una sensazione di libertà, di spazio, come dire, di condivisione possibile, che potenzia anche i livelli di, io credo, capacità di autostima da parte dei nostri figli. Di autostima e dunque di autodeterminazione. Grazie, esatto. Grazie ad Antonio Restori. Voglio chiudere con Ettore Ciano, il genitore che ci ha raccontato quanto sia stato formativo dal punto di vista della consapevolezza sociale scoprire che il proprio ragazzo, che il proprio figlio era omosessuale. Ettore, dunque, ha sentito tanti stimoli e tante voci che qualche anno fa probabilmente non avrebbero nemmeno osato chiamare una trasmissione radiofonica per raccontare la propria esperienza anche di omosessuali. Secondo lei si sta facendo un passo in avanti? Dunque, io ho 70 anni e da 20 anni ho il coming out dei figli in famiglia, perché ho tutti e due i figli omosessuali, il maschio e la femmina, e sono in attesa da 20 anni di uno Stato che almeno faccia un passo come quello inglese oppure come quello francese, che fa l'equivalente, cioè in cui compare sulla nostra legislazione, non c'è nessuna cosa che affronta la questione omosessuale, nessuna legge, nessuna circolare, niente di particolare, eccetto quella di Profumo di settembre scorso. Però negli altri Stati c'è una volontà politica alla base di modificare, di prevenire questi episodi che poi tanto ci fanno come dire, inalberare quando si verifica, cioè un figlio che si butta dal terrazzo del condominio non è una cosa piacevole per nessuno, ma mette in discussione le coscienze di tutta una nazione. Ebbene, da 20 anni io aspetto una legge scritta, deliberata dal Parlamento italiano. Si sono fatte tutte le possibili congetture, discussioni lessicali, discussioni costituzionali, la salvaguardia di certi diritti e certi poteri, diritti di offendere, diritti di promuovere, non nessuno ha pensato ai diritti dei nostri figli, signora Irene. Io ringrazio quando voi dei mass media fate un passo avanti per cercare di modificare gli atteggiamenti. Non credo che siamo a livello né dell'Inghilterra né della Spagna. Francia. Io ho mia figlia che vive in Francia, ma neanche della Spagna. Ma né della Spagna. Il matrimonio, certo. Per favore, cioè, stiamo parlando, pur mettendoci tra i paesi, andando ai G20, eccetera, eccetera, continuiamo ad avere le sollecitazioni da parte dell'Europa che ci dice fate la legge per regolamentare i diritti degli omosessuali, e ci stanno facendo, tra poco ci faranno le multe, porteremo qualche causa al Consiglio d'Europa. E si ha ancora una volta la sensazione di un paese a due velocità, dove nella società, nella vita di tutti i giorni c'è condivisione, convivenza fianco a fianco con le situazioni più diverse, più disparate, dove invece il Parlamento gira la testa all'altra parte, dove con quasi si dice sì, certo, l'omosessualità, però che non chiedano di essere riconosciuti, però che non chiedano che le coppie di fatto, siamo ancora l'unico paese che non riconosce le coppie di fatto, nemmeno eterosessuali, ricordiamolo, e i diritti di chi è coinvolto nelle coppie di fatto, non chiedano un riconoscimento. C'è sempre questa doppia velocità. Ettore Ciano, grazie per aver condiviso con noi la sua esperienza, naturalmente. Grazie a tutti voi, a Claudio Cipelletti, Antonio Restore, Cristian Fabi e coloro che hanno preso parte a questo dibattito e a questa discussione, che è stata una sorta di raccolta di testimonianze di chi vive tutti i giorni questa situazione. Ora cambiamo pagina completamente, perché vogliamo parlare tra pochissimo di turismo. Quick time, girl. Oh, Grazie, grazie a Carmelo Lauricella, il regista mi fa tutti questi regali insieme a Benedetta Acri, regali musicali, grazie a Marco Lombardo che li ha pensati per inseguire un po' le nostre idee e accompagnarle anche con note. Ora, ci siamo chiesti quale sia la città più gettonata in Italia dagli italiani. Qual è la riviera che vince, che ha il primato delle preferenze degli italiani in questa stagione 2013? E tra un po' incoroneremo il vincitore, la vincitrice, se riusciremo ad avere anche il sindaco di questa città ai nostri microfoni tra poco. Ma sono tantissimi i dati che colpiscono. Innanzitutto quello segnalato dai consumatori, il 55% delle famiglie italiane non si farà neanche un giretto fuori porta quest'anno, nel senso che non è più la vacanza nemmeno breve a salvare le situazioni decisamente messe a dura prova dalla crisi, situazioni economiche pesantissime. Quindi il 55% le vacanze le trascorrerà nel luogo dove abita anche negli altri 11 mesi dell'anno, attenzione. E tra coloro che sono partiti, il 79% di incremento come destinazione finale l'ha fatto registrare l'Italia, proprio così, perché si va comunque in zona, si va nei paraggi, si va vicino. Buongiorno, buongiorno a Carlo Rienzi. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Carlo Rienzi, presidente del Codacons, non stiamo parlando di nulla di nuovo, secondo quanto voi segnalate ormai da giorni. Qual è la tendenza in questa estate 2013, dovendo fare un raffronto anche con la stagione precedente? Ma la tendenza è un turismo a metà, purtroppo, perché più della metà degli italiani se ne sta a casa. È per questo che anche noi cerchiamo di dare indicazioni su casa e vicino casa, perché non è nemmeno giusto che si resti a casa e si resti proprio dentro casa, per cui la rivalutazione del territorio, di quello che avviene vicino alla tua città, di quello che avviene anche a pochi chilometri, per cui non devi andare a dormire fuori, ma puoi andare al limite a vedere un posto lì vicino e poi ritornare a dormire a casa. Purtroppo lo sforzo che stiamo facendo tutti quanti, anche per le segnalazioni che ci arrivano dai tanti consumatori, è proprio questo. Abbiamo fatto addirittura un portale che si chiama Italive, Italive, dove si trovano tutti gli eventi del territorio, quindi quello che avviene dal punto di vista alimentare, gastronomico, culturale, le sagre, eccetera. In modo, insomma, che far di necessità virtù, di poco, lei dice. Far di necessità virtù e in questa situazione approfittare per scoprire questo territorio che tra l'altro è una delle mete preferite della maggioranza dei turisti stranieri. Se calcolate quante ore di volo si sobbarcano, quanti mesi di risparmio per accantonare l'agognatissimo viaggio in Italia, che costituisce il sogno medio della media borghesia internazionale, ce l'abbiamo qua, sembra dire il Codacons, approfittiamone per esplorare, fare i turisti anche intorno a noi, e questo è un suggerimento particolarmente apprezzato. Ebbene, ci chiedono gli ascoltatori qual è la città più gettonata, lo riveleremo tra pochissimo, non sarà una sorpresa per molti, così come la riviera più gettonata quest'anno. 800 24 00 24 se volete condividere le vostre scelte, sono stati gli aspetti di budget a determinare anche le scelte degli italiani. Giulia e Eremita, buongiorno. Buongiorno a voi, salve. E Giulia Eremita è la responsabile marketing di Trivago, che è uno dei siti di ricerca e prenotazione, ma soprattutto che offre questa comparazione di prezzi. Siamo partiti dalle vostre segnalazioni sul weekend di Ferragosto. Voi ci dite, o segnalate, che il Mar Ligure è più caro dello Ionio. Sì, sì, esatto, questa è una rilevazione che abbiamo fatto in prossimità di Ferragosto, quindi proprio sulle date, su queste date, insomma, dal 14 al 15. Il Mar Ionio, il Mar Ligure è il risultato più caro dello Ionio, quindi abbiamo preso le distanze per ogni costa. Di quanto si scosta il Mar Ligure dal prezzo medio di pernottamento e presenza in un albergo, in una struttura del Mar Ionio? Allora, diciamo che ci sono ovviamente destinazioni anche in Sardegna come Porto Cervo molto simili. Se parliamo appunto di differenze, diciamo che siamo sull'ordine del centinaio di euro, quindi abbastanza, però se prendiamo solamente le destinazioni, diciamo, che abbiamo analizzato, non abbiamo tutte le destinazioni del Marioni, tutte le destinazioni del Mar Ligure, siamo sull'ordine sì dei 100 euro più o meno. E poi avete visto insomma la classifica, quindi tira la classifica al top sicuramente Portofino, che è una destinazione quasi sold out. Se andiamo a vedere appunto la data di oggi, la data di domani per il 15, non si trovano disponibilità, gli unici alberghi disponibili hanno ovviamente prezzi molto, molto alti, per poi scendere in altre destinazioni che sono quasi sold out sulla Liguria. Diciamo che il fatto che il prezzo sia alto poi non è... Alassio per esempio. Esatto, anche a Lassio è stato rilevato un prezzo diciamo più popolare, siamo ai 534 euro per camera doppia di Portofino, però parliamo di 295 euro in doppia. 295 euro a notte ad Alassio, ma questi sono naturalmente prezzi medi per il 15 agosto, e sono i prezzi di altissima stagione? No, sono i prezzi solo di questo giorno particolare che ha pochissime disponibilità di camera. Allora, se noi parliamo invece dei prezzi medi, se volete ve li posso guardare proprio in diretta per quanto riguarda agosto, il prezzo medio per agosto no, è sempre diciamo abbastanza alto, 240 euro per doppia notte. Lo scorso anno fu agosto 2012 di 236. Alassio è una destinazione che probabilmente è molto, molto gettonata. Il fatto che si possano permettere tariffe di questo tipo. Santa Margherita Ligure, che compare sempre nelle top 10 delle città al mare per prezzo. Santa Margherita Ligure ha una media invece di 242 euro. Ma qual è la città preferita dagli italiani anche quest'anno per le vacanze? E lo diremo tra pochissimo, la saluteremo qui in diretta perché si è unito a noi il suo sindaco. Ora 800 24 00 24 per le vostre segnalazioni o 349 238 6666 per gli SMS. Spunti di vista. I mille aspetti dell'attualità. E dunque parliamo di Summer Paradise, ancora buongiorno da Irene Zerbini, 32 minuti trascorsi dopo le 9. Qual è la regina del Ferragosto italiano? Secondo il web, la città più ricercata, la città più cliccata. L'anno scorso già si era aggiudicata questo primato, che non cambia. In agosto gli italiani preferiscono Rimini. Buongiorno Andrea Agnassi. Buongiorno a voi. Beh, lei è il sindaco di Rimini e sarà stato, immagino, felicemente sorpreso da questa rilevazione del web. Ma diciamo di sì, però la sorpresa è quasi non sorprendersi, perché ormai questo pezzettino sull'Adriatico, questo puntino sull'asse dell'Adriatico ha una storia lunga di ospitalità, di accoglienza, che ogni anno, come dire, sorprende se stesso perché non sorprende più gli italiani. E cosa cercano gli italiani a Rimini? Perché ci segnalano, ora non se la prenda da sindaco, da primo cittadino, ci segnalano alcuni ascoltatori all'SMS, non è certo l'acqua da sogno del sud della Sicilia, del sud dell'Italia, scusate, o della Sardegna. Beh, allora, intanto è noto, perché siamo un posto serio, una regione seria, che il nostro è il mare più monitorato d'Italia, abbiamo dei rilievi tecnico-scientifici che accertano che le acque dell'Adriatico sono eccellenti, il nostro mare con fondale basso e sabbioso. Vi invito a venire a vedere, perché non è che lo dice il sindaco, ma si possono vedere, quasi toccare, i delfini all'alba, che in quest'anno tra l'altro sono molto presenti in Adriatico. E che sono stati moltissimi coloro che l'hanno scelta per la prima volta, ma una grandissima percentuale di coloro che vanno a Rimini, sindaco, ci ritorna. Questo forse è la cosa più bella. Guardi, adesso giusto ho sotto mano, ma non per caso, diciamo così, perché mi chiamata la radio, ma perché mi è arrivato proprio in questi giorni. Le leggo due righe che forse raccontano il perché la gente torna. Legga. Vivamente commossi, inaspettata, affettuosa accoglienza, preghiamo Vostra Signoria essere interprete, nostri sinceri ringraziamenti presso codestra patriottica città. Questi sono due villeggianti, cecchi e bianchi, che nel 1882 scrivono al sindaco di allora di Rimini ringraziando il sindaco e quindi la città per l'affettuosa accoglienza. Ma era il 1882, lei lettere così ne riceve oggi? Assolutamente sì, pensi che il primo stabilimento dei bagni nasce nel 1843 e la storia, come dire, va avanti. Rimini forse è forte perché siamo noi stessi, non cambiamo il nostro carattere, la nostra identità, ma cambiamo tutti i giorni. Quella bella lettera del 1882 vuol dire che qui c'è una storia e quello che gli italiani, ma anche gli stranieri, possono sentire quando vanno a casa che sono stati in un posto vero. Non siamo in un villaggio turistico di plastica, dove il cibo, le tagliatelle, le sdore, le cose fatte a mano possono darti un'emozione in quella che è la spiaggia più grande d'Europa. La fortuna che abbiamo è anche questo meraviglioso entroterra, e qui c'è un lembo di Romagna che si infila tra le Marche e la Toscana ed è costellato di rocche rinascimentali malatestiane, dove Sigismondo Pandolfo Malatesta combatté e perse purtroppo Federico, duca di Urbino. E a proposito di Urbino, lei dice molti di coloro che vanno a Rimini approfittano anche magari quando la giornata è coperta eccetera per farsi un giro lì nei dintorni, nel Pesarese, a Urbino che lei ha citato, nelle città d'arte, è una posizione un po' strategica. Ora sindaco, noi sappiamo anche dalle cronache che c'è anche un tentativo di dialogo, ci aggiorni su come sta andando tra il comune di Rimini e gli ambulanti, perché quelli che percorrono la spiaggia offrendo ai turisti le borse, vestiti, hanno sfilato, stanno protestando, dicono lasciateci lavorare. Cosa sta succedendo? Ci dica Andrea Agnassi. Sì, Andrea Agnassi adesso me lo dice. Faccio una piccola parentesi perché mi ha stimolato. La fortuna nostra è quella di avere questa grandissima spiaggia in riva all'Adriatico che è ammantata dal sogno di Fellini e poi è cullata dalla città d'arte che Rimini è, perché Piero della Francesca, il Duomo, il Tempio Malatestiano, l'Arco d'Augusto, qui arriva la via Flaminia e parte la via Emilia, il Ponte di Tiberio, è una città romana. E questo mix fa sì che le nostre proposte, anche in termini di qualità, di prezzi... Andrea, sta rispondendo alla domanda di prima? Le ho chiesto come va con gli ambulanti. Ah, ok, va bene, non l'avevo capito. No. Mi sente? Sì, certo. No, perché noi abbiamo colto e apprezziamo, le assicuro, tutto ciò che Rimini offre. Ma vorremmo capire... Io faccio il mio lavoro. Sì, no, beh, visto che stiamo conversando magari. No, semplicemente, sì, grazie. Ma fa parte della vostra simpatia, fa parte della tipica simpatia romagnola. Lei è sindaco di Rimini, giustamente ne approfitta per ripetere quello che sono i punti di forza della città, che non ha bisogno di rinforzi. Voi siete stati la città più gettonata dai turisti l'anno scorso e anche quest'anno, e subito dopo di voi c'è Riccione. Al terzo posto il Lido di Jesolo e al quarto posto Sorrento. Taormina arriva quinta, questa è la classifica completa. Ischia, sesta, Caorle, Cesenatico, arriva un altro possibile rivale, faccio attenzione a Rimini, dovete distinguervi dai vicini di casa, è ottavo, e poi c'è Lecce, nono, e Siracusa, decima posizione. Prima di... Torniamo alla domanda, con gli ambulanti, cosa sta succedendo? Avete dichiarato guerra agli ambulanti? Cosa è successo? No, guarda, io capisco, poi c'è anche una sintesi giornalistica, né buonismo né sceriffismo. Sì. L'Italia è un paese dove a volte il principio della legalità è borderline, avete visto, no? Il nostro è un paese dove tante persone vengono sulla costa romagnola, in Versiglia, ma anche se andate a Firenze, a Venezia. Nell'entroterra, vicino al Ducato d'Urbino. Ducato d'Urbino, eccetera. Ma ha trovato preparata stavolta, sì. Però? Rispetto al fenomeno degli ambulanti, noi abbiamo deciso nel Comitato Ordine Pubblico e Sicurezza di avviare né le ronde, né di far finta di niente, né di assicurare quei servizi in spiaggia e lungo tutta la riviera che possono dare tranquillità ai turisti, e cioè un sistema integrato di sicurezza complementare, dove oltre alla Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine ci sono anche associazioni di volontariato, ci sono gli operatori economici, per dire che il commercio ambulante non va bene. Tra l'altro ne approfitto, perché questo è anche un tema nazionale, oltre, come dire, a fenomeni che ci sono, no, di abusivismo commerciale, c'è anche una cultura della legalità da instillare negli italiani, perché se c'è chi, diciamo così, vende, c'è anche chi compra. Quindi il fenomeno è quello tipicamente italiano, e siccome noi non vogliamo creare né ghetti né sceriffi né però chiudere un occhio, abbiamo deciso di agire, di non far finta di niente, con dei risultati insomma che sono importanti. Avete comunque avviato un dialogo, so che hai incontrato Papa Sekou Moodu, il rappresentante dell'associazione senegalese della provincia e presidente dell'associazione Oltre le Frontiere. Bisogna distinguere chi ha la licenza, chi paga le tasse, chi è regolare, anche questi ragazzi che sono venuti sono residenti, possono diventare, alcuni lo sono, cittadini italiani, quindi si va verso un percorso di legalità individuando anche alcune situazioni, alcune zone dove chi ha una licenza può esercitare. Sindaco, grazie per questo suo intervento. Dobbiamo lasciare parlare un po' anche tutte le altre realtà. Lei dove va in vacanza quando si muove da Rimini? Io last minute and last second, come fanno gli italiani. Adesso siamo nel pieno del Ferragosto, che stiamo preparando il settembre degli eventi, e siccome faccio il mio lavoro abbiamo il MotoGP, il Moto Mondiale, il Blockfest e grandissimi eventi più in settembre, perché da noi la stagione non finisce agosto. Non ho capito dove va in vacanza. Appunto, last minute, last second, non lo so, adesso vado su Trivago e quando trovo un'offerta giusta... E si ritroverà a Riccione, sarebbe piuttosto bizzarro. Grazie Andrea Gnassi per questa sua disponibilità. Simpatico, il sindaco di Rimini, decisamente. E c'è con noi anche il sindaco di Cefalù, se non ci ha lasciato nel frattempo, sentendo parlare anche, possiamo definirlo rivale, ma no, Rosario. Buongiorno. Buongiorno, no, ho ascoltato anche piacevolmente il mio collega. Rosario Lapunzina, sindaco di Cefalù. Cosa invidiate a Rimini? Voi che non siete nei primi 10, però c'eravate l'anno scorso. È chiaro che non è così facile andare a Cefalù anche in macchina, diciamo, rispetto all'approdabilità, alla facilità con cui con queste vacanze mordi e fuggi si cerca una città, una località facilmente raggiungibile. Cosa importerebbe da Rimini lei se potesse? L'accoglienza, quella che hanno, è il sorriso, ma c'è anche da noi, per carità, però da loro questo è stato, diciamo, da sempre motivo di ricordo da parte dei turisti, da parte di tutti. Noi stiamo lavorando per questo, per far stare meglio i cittadini qui a Cefalù e per ricevere con un sorriso in bocca anche i turisti, per cui io sono sindaco da maggio dell'anno scorso e sto cercando sempre più di creare servizi per i cittadini residenti e lasciare al meglio, diciamo, la città, per cui renderla la nostra città fa parte dei borghi più belli d'Italia, di questo club che racchiude 200 e più comuni, per cui stiamo cercando per esempio di far sì che il borgo, la parte del centro storico fatta di vie molto belle che portano sino alla cattedrale, sia libera dalle macchine, ma per fare questo dobbiamo, siccome il nostro è un centro storico vivo, partecipato, diciamo vissuto da tanti cittadini, dobbiamo creare i servizi, i parcheggi per i cittadini che lo vivono, per cui è importante far sì che i cittadini di Cefalù si rendano conto che il turismo, la nostra è una città a vocazione turistica, il turismo è una ricchezza, per cui bisogna vivere bene e accogliere i turisti con sorriso e con grande accoglienza. Lei ha fatto bene a ricordare che appunto Cefalù è inclusa nel club dei borghi più belli d'Italia. Beh, e ogni immagine di Cefalù, chi c'è stato, chi lo ha appunto la clicca su Trivago, è mozzafiato, è decisamente, se potesse il sindaco di Rimini probabilmente importare alcuni dei vostri scorci, non esiterebbe, nonostante sia molto fornito di altre armi, come avete sentito. Rimini rimane in cima alla classifica delle città più gettonate. Cefalù era la nona meta italiana fino a quest'anno, ora siete stati superati da Siracusa. Perché lei, sindaco, dice che bisognerebbe far capire agli abitanti che il turismo dà una boccata d'ossigeno all'economia, importante? Perché c'è questa resistenza a capire questo elemento che sembra abbastanza ovvio? Qual è il problema che avete con gli abitanti? No, nessun problema, per carità, non è un problema con gli abitanti, dobbiamo sempre più far sì che la nostra città diventi più accogliente. Nel tempo, più che un problema, nel tempo sono stati creati pochi servizi per i cittadini residenti, per cui io per esempio ho acquisito da parte delle Ferrovie dello Stato un'area di 150 posti che sto destinando ai cittadini residenti. Sto cercando di far sì che la zona al centro storico diventi una zona con le telecamere dell'ATL, per cui controllata, però nel frattempo agli stessi cittadini ho dato la possibilità di avere un parcheggio. Un parcheggio e anche altri servizi, per cui più che un problema con i cittadini, noi dobbiamo cercare, insomma, di far sì che i cittadini accolgano con grande gioia, diciamo, l'arrivo dei turisti. Ma quanti sono i cittadini a Cefalù? Quanti abitanti avete? Noi abbiamo 14.000 abitanti, poi nel d'inverno periodo estivo. D'estate è chiaro che arriviamo anche appunto ai 35-40.000 e tutto questo. E quest'anno, nell'anno in cui la nostra città fa parte, diciamo, fa il giro del mondo, perché il nostro Cristo Pantocratore all'interno della cattedrale è stato scelto da Papa Benedetto XVI come icona dell'anno della fede, per cui noi quest'anno facciamo, grazie al Cristo Pantocratore, il giro del mondo. Per cui abbiamo anche quest'anno del turismo religioso che ha raggiunto Cefalù. E questo quindi non si limita alla stagione estiva, ma da solo il vostro centro storico, questo impianto medievale, questi ciottoli della spiaggia, la rocca di Cefalù, il calcare, io credo non abbiate elementi, non vi siete fatti mancare niente a Cefalù, sindaco. Rimanga con noi perché tra poco sveleremo anche quanto costa una camera doppia in media a Cefalù, secondo i dati rilevati da Trivago. Ora però voi create le zone pedonali, noi dobbiamo andare a controllare su strada e autostrada come sta andando l'esodo. Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. C'è chi ci segnala Gradara, 47 minuti dopo le 9, buongiorno da Irene Zerbini un'altra volta. Gradara come meta da visitare mentre siete a Rimini, pensateci. 800 24 00 24 per le vostre scelte, le vostre destinazioni. Tra le città meno costose in questo ponte di Ferragosto ci sono le mete del Mar Ionio come Taranto, cioè 110 euro a notte. Qui stiamo parlando di camere doppie. Poi c'è Isola Caporizzuto, Policoro, anche le località sarde propongono un weekend a prezzi bassi. A Cagliari, per esempio, il prezzo medio a camera a notte è di 98 euro, sempre per due persone. Si sale un po' ad Alghero con 149 euro a camera a notte e a Olbia si sfiorano i 160 euro. Per quel che riguarda Cefalù, sindaco, qual è il prezzo medio di una camera? Noi non abbiamo prezzi alti per le camere, per cui siamo su una media di 120-130 euro. Per la camera doppia, secondo le segnalazioni di Trivago, la media a Cefalù è di 174 euro. È anche vero che è difficile trovarla, io credo, in questo periodo. Avete il tutto esaurito? Il prezzo di 174 euro mi sembra, come prezzo medio, mi sembra un po' troppo alto, però può darsi che, insomma, in questo momento non ho il quadro completo. E, sì, in questo momento è tutto esaurito, nonostante la crisi che attraversa un po' tutti i posti balneari e non, abbiamo, diciamo, una discreta affluenza. Giulia Remita, responsabile marketing di Trivago, aveva così delle perplessità. Abbiamo perso anche Giulia Remita, me l'hanno segnalato in cuffia, e la responsabile marketing di Trivago, a cui volevamo chiedere appunto qualcosa sulle procedure di rilevazione, ma già c'era stato spiegato, sono fatte sulla base dei click e vengono comparati da parte di Trivago naturalmente oltre 600.000 hotel in tutto il mondo. I loro prezzi, le recensioni sono 42 milioni, le recensioni ci sono 14 milioni di foto e questo per aiutare gli utenti a trovare l'hotel perfetto. Ma noi qui a Cefalù aspettiamo anche la notizia che venga di nuovo investire qui il Club Med, perché la storia di Cefalù dal 1951 l'ha fatta il Club Med, chiuso dal 2005 perché aveva una struttura in capanne che non offriva più quel grado di accoglienza per quanto riguarda i turisti, anche perché era un turismo degli anni 70. E quest'anno stiamo aspettando un investimento poderoso del Club Med insieme con Italia Turismo, e per cui si costruirà un 5 tridenti, speriamo al più più presto possibile, per una struttura molto bella che sorgerà in un promontorio, il promontorio Santa Lucia, un posto mozzafiato da dove si vede tutto Cefalù. Grazie al sindaco di Cefalù, Rosario Lapunzina, per essere rimasto con noi. Ora vorrei chiedere a Claudio Visentin, buongiorno, benvenuto. Eccoci qua. Il presidente della scuola del viaggio presso l'Università della Svizzera Italiana. Cos'è questo turismo anni 70 a cui faceva riferimento il sindaco e quali sono le caratteristiche del turismo di oggi, al di là del budget inevitabilmente che condiziona tutte le scelte, ma quali sarebbero a costo zero le mete dei viaggi degli italiani se potessero scegliere qualunque cosa? Secondo lei questa classifica cambierebbe di molto? Gliela ripeto: Rimini, Riccione sono i primi due posti, Lido di Jesolo, poi Sorrento, Taormina, Ischia, Caorle, Cesenatico, Lecce, Siracusa. L'incidenza in tempi di crisi di quanto si può spendere è ovvia, ma cosa cambierebbe se le vacanze fossero teoricamente senza limiti di budget? In Italia dove si andrebbe secondo lei? Ma questa è una classifica molto ferragostana, cioè sia i prezzi così alti che non hanno riscontro in tutto il resto dell'anno assolutamente in questi posti, sia secondo me la scelta di queste mete riflette molto il fatto che siamo in ferragosto. Quest'anno, tra l'altro, curiosamente, l'alta stagione si è stretta tantissimo perché gli italiani hanno ridotto le vacanze ovviamente, ma non sono ancora riusciti a fare la scelta coraggiosa, ma secondo me necessaria, di rinunciare a ferragosto. Arrivati a ferragosto gli è venuta malinconia e sono partiti comunque per qualche giorno e si sono ovviamente trovati questi prezzi molto alti, però è stato l'anno con la stagione turistica più breve. Questo qui è il buon vecchio mare dove si va comunque a fare una puntata, si va a Rimini magari nel fine settimana, già anche a Rimini non si va più per delle intere settimane o per dei mesi come si andava una volta nei tempi d'oro che si ricordavano, ma si fanno delle puntate un po' frenetiche di 2-3 giorni. Capita in alta stagione che il mercoledì a Rimini ci sia un'assoluta tranquillità. E poi ovviamente alcuni di questi posti sono bellissimi, più quelli che stanno forse in fondo alla classifica dei posti 10, Lecce, Cefalù, molte parti della Sicilia, che non alcuni dei primi che sono oggettivamente dei grandi turistifici che vanno bene per il Ferragosto. Dove andrebbero gli italiani? Dove vanno già gli italiani? Perché in realtà gli italiani vanno in giro per il mondo, diciamo i viaggiatori più intraprendenti, i viaggiatori più innovativi, quelli più curiosi, dove li trova adesso? Li trova probabilmente nelle repubbliche, nelle nuove repubbliche dell'Europa dell'Est, nell'Azerbaigian, nel Kazakistan. Possono essere per esempio in Vietnam, c'è molto interesse per il Sud America. Ecco, queste secondo me sono che sono un po' mete effettivamente anche anni 70, sono gli eterni territori della scoperta dei viaggiatori indipendenti, diciamo. Ma limitiamoci all'Italia: Rimini, Riccione, Lido di Jesolo, queste sono le mete più ambite o comunque più cliccate. E è chiaro che il sospetto, per quanto il sindaco di Rimini sia stato bravissimo a difendere l'unicità, l'ospitalità, la bellezza della Piadina, della Tagliatella, l'accoglienza innegabile della Riviera Romagnola, c'è il sospetto che se si avesse più disponibilità economica i posti dove si andrebbe anche in Italia sarebbero anche altri. Sì, non c'è dubbio, diciamo così, Rimini è un posto di Rimini, è vero che Rimini è antica e bella, è vero che l'entroterra è affascinante, è molto poco conosciuto tra l'altro, e il Monte Feltro è strepitoso da un certo punto di vista, è anche vero che Rimini è un luogo che si è spinto sull'orlo del baratro cementificando tutto quello che poteva cementificare e che adesso sta cercando con molta inventiva di salvarsi, di utilizzare al meglio i moltissimi alberghi che ha e di offrire quindi a tantissimi alberghi, per questo riesce probabilmente ad accogliere molte persone anche sull'ambito del Ferragosto. E il sindaco di Cefalù, ahimè, sembra avere una stessa propensione cementizia anche lui quando parla di questo meraviglioso promontorio su cui vede già sorgere un villaggio vacanza di cemento. La bellezza sta in larga parte ovviamente nell'Italia del Sud, la Basilicata interna che è stata celebrata, la Basilicata coast to coast, il Salento ovviamente, ma anche la Calabria della Sila, assolutamente un posto strepitoso, tutta la Sicilia. Sardegna, con incluso nel prezzo quel senso di malinconia vedendo quello che i siciliani sono riusciti a fare alla loro terra, ma vedendo anche quanta bellezza è sopravvissuta, strepitosa di questo loro passato meraviglioso. Io credo la frontiera della bellezza passa a sud, passa del Mediterraneo, a nord c'è l'efficienza, c'è l'accoglienza a buon prezzo, c'è la cordialità dei riminesi, ma la bellezza è più in basso. Lei è stato molto netto. Carlo Lienzi, presidente del Codacons, quali sono i disservizi più segnalati in questa stagione? Ma intanto io volevo dire che Rimini ha il vantaggio della concorrenza, cioè Cefalù non lo può avere. Quello che accade sulla costa romagnola è semplice, cioè c'è il sistema virtuoso della concorrenza, lui c'è una grande offerta, gli imprenditori, gli operatori turistici si danno da fare per inventarsi delle cose, per cui la gente in questa situazione di crisi va a Rimini, e invece se va in un altro posto, non dico Cefalù ovviamente, dove la domanda è superiore all'offerta, ti spennano come un pollo. Quello che è grave è che non ci sia nel nostro paese un servizio che non deve essere, senza offesa per Trivago, per TripAdvisor, che tra l'altro è stato coinvolto in scandali, eccetera, un servizio autogestito dai privati per indicare cosa fare se si vuole andare in vacanza. È una ricchezza talmente forte quella del turismo nel nostro paese che dovrebbe il governo occuparsene, io non voglio fare qui il solito che critica il governo, ma è da fare invece proprio questo. Cioè non è possibile che non ci siano risorse per creare degli strumenti, delle strutture, adesso che c'è internet, garantite, per cui io posso andare lì e vedere, voglio andare in questa zona, che cosa trovo, cosa posso fare, quanto pago, mi posso fidare di questi, di quest'altro, eccetera. No, devo ricorrere a 10.000 privati che poi si fanno concorrenza, dove poi chi scrive è anche il concorrente dell'albergo vicino e dice che quello a fianco fa schifo, per cui vengono fuori poi gli scandali. Sì, ma questo viene... Non abbiamo nulla di organizzato seriamente nel nostro paese. Viene un po' compensato dai milioni di recensioni, però ha ragione lei, cioè tutte le città, anche meno belle di quelle italiane del mondo, mettono a disposizione dei turisti servizi dettagliatissimi e gestiti a livello istituzionale, cioè ma non solo i che indicano il monumento quando c'è, piuttosto che l'attrazione turistica, ma perfino dove cambiare il denaro, dove trovare un certo tipo di pannolini per i bambini, dove parcheggiare la macchina, si entra in tutti i bisogni del consumatore turista. Perché noi, che dovremmo avere una vocazione turistica nazionale, siamo un passo indietro? Anche lì c'è una risposta, Rienzi? La risposta è che è stato eliminato il Ministero del Turismo, che il governo non se ne occupa, che quindi ogni piccolo comune che fa una iniziativa, perché quello che non sa l'ascoltatore è che tutti i comuni in questa stagione inventano qualche cosa per attirare i turisti, ma nessuno sa che ciò avviene, né si può andare a casaccio cliccando sul comune. Ecco il problema. Non si è informati nemmeno del comune accanto spesso. Grazie. Grazie dunque a Carlo Rienzi, presidente del Codacons. Con noi c'è stato Claudio Visentin, presidente della Scuola del Viaggio presso l'Università della Svizzera Italiana. Grazie al responsabile marketing di Trivago, al sindaco di Rimini, Andrea Agnassi, e a Rosario Lapunzina, sindaco di Cefalù. Soprattutto a tutti voi che ci avete seguito, Spunti di Vista ritorna alle 8:15 domani mattina. Un saluto da Irene Zerbini.